You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. No, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. Ah, i film di Tarzan. No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Ah, volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè, per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nutizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Benvenuti e buon Natale da Valentina Furlanetto. La tavola è apparecchiata a Radio 24 per festeggiare con voi il cenone della vigilia e il pranzo di Natale. Come avete sentito dal brano tratto dai Sopranos, non siamo affatto più buoni, siamo sempre neri, brutti e cattivi. Ma i nostri piatti della vigilia e del pranzo di Natale sono buonissimi, perché a suggerirceli sono dei veri e propri chef. La tendenza in atto è che la cucina italiana è sempre più rivisitata da chef che hanno origini straniere, che magari hanno iniziato come lavapiatti dall'ultimo gradino della cucina per arrivare poi ad affermarsi. Si sono affermati, ad esempio, negli ultimi anni molti pasticceri di alta pasticceria di origine albanesi, sempre più fra gli chef i sudamericani, ma anche gli arabi. Basti pensare che la migliore carbonara d'Italia, secondo il Gambero Rosso, la fa un tunisino. E poi ci sono gli europei, che invece hanno fatto un percorso diverso, scegliendo l'Italia come approdo di un percorso di ricerca. Abbiamo chiesto quindi ad alcuni di loro di raccontarci quali sono le tradizioni dei loro paesi di origine e come hanno rinnovato invece la tradizione italiana. E allora iniziamo dall'Uruguay, da cui proviene lo chef Mattias Perdomo del ristorante Contraste a Milano. Uruguay. Purtroppo noi, dopo la colonizzazione di Cristoforo Colombo, non siamo mai più riusciti a crearci la nostra propria tradizione. Noi abbiamo delle origini molto italiani, no? Italiani e spagnoli, abbastanza simili a volte, diciamo, le tradizioni, anche se è un paradosso perché comunque ci sono 40 gradi d'estate. A Natale, se tu vai a Natale giù in Uruguay, trovi il panettone, il torrone, le mandorle sul tavolo, che è una cosa che non ha senso dal punto di vista climatico in quel periodo. Questa è la nostra tradizione, che non è nostra, infatti, che l'abbiamo adottata per una questione magari di, non so, di migranti che sono arrivati e hanno colonizzato e noi non siamo riusciti, diciamo, parlo dei 1500, a impiantare le nostre radici. Adesso sta iniziando a venire fuori, però sulla tavola c'è una confusione, cioè c'è una miscela di ingredienti, di prodotti che sono, passano dall'inverno all'estate. Trovi a volte il panettone, il torrone, le mandorle, come dicevo, però fai anche, per esempio, la lingua alla vinagretta. La lingua alla vinagretta è molto fresca d'estate, diciamo che è un grande classico, al di là della grigliata, assolutamente la grigliata sempre. You never told me. the stars, we found the love within us. Red lips, soft skin, I got my eyes on you now. Let's never go to sleep, we're gonna make it somehow. E che cosa si può fare allora anche in Italia, anche nel vostro, nel tuo ristorante Contrast, per rinnovare un po' la tradizione che è quella italiana, ma cercando di portarla un po' avanti, un po' modernizzata? Ma, qua la tradizione ha in Italia, per fortuna, un bello spessore, no? E se continua comunque a fare una poca rivisitazione comunque attorno ai tempi di oggi, cioè 40 anni fa non c'erano i caloriferi e c'erano 26 gradi dentro delle case come c'è oggi, per cui io direi un attimo anche di alleggerire comunque i pasti a Natale, a Capodanno. Direi di partire con degli antipasti, comunque come diciamo che ognuno fa il suo alla vigilia, chi è più religioso fa assolutamente il pesce o via dicendo, però cercare un attimo di spostare quello che sono dei carboidrati alla fine del pasto, cercando un attimo di diminuirle e di dare comunque alla fine questa diciamo digestione che è un po' più appesantita del fatto che il carboidrato ha bisogno di più tempo per digerire, per cui se uno le mette in mezzo e dopo arriva il bollito piuttosto che un maialino al forno, qualcosa del genere, uno non ce la fa più, però per gola continua a mangiare, ma dopo non ce la fa più. Per cui un attimo sarebbe anche di forse spostare il carboidrato alla fine e alleggerire molto. Io continuo a vedere, alla fine sempre arriva il cotechino con le lenticchie. Io non voglio dire, però sto cotechino con le lenticchie è buonissimo. In mezzo al panettone col sabaglione, cotechino con le lenticchie. Non sai che c'hai una forchetta tra l'uno e una forchetta tra l'altro. Io ho fatto un piatto che è ricchezza e povertà, magari ispirandosi anche lì a alleggerirlo e fare un brodo caldo, un brodo di lenticchie con magari o un brodo di cotechino alleggerendolo molto con delle perle di lenticchie, una roba che vada a finire, perché a mezzanotte mangiare un po' di cotechino con lenticchie diventa veramente faticoso. Per cui pensare anche a che è cambiata la cultura, cioè oggi c'è la fortuna, in tanti altri per diciamo purtroppo non ce l'hanno, di scegliere e di riflettere su che mondo stiamo vivendo e magari alleggerire anche, perché non c'è un bisogno calorico tanto pesante come tanti anni fa, no? Cioè la cucina parte anche della riflessione, no? E di rendersene conto che magari sì, tradizionalmente si facevano tante cose, ma lo dico anche guardandomi nello specchio, cioè mi rendo conto che quando vado in Uruguay, alla mia terra, alla mia casa, vedo delle cose che non hanno senso, ma perché viviamo nell'automatismo, non ci rendiamo conto di fermarci un attimo a riflettere perché abbiamo il torrone, le mandorle o il panettone sulla tavola con 40 gradi. E qua magari anche quell'avanzo spropositato, ma anche avanzo in superfluo, no? Della quantità e dell'esagerazione anche nella quantità calorico. Credo che comunque mangiare a tavola e nelle feste sia anche una questione di riflessione. Cioè, oggi ci sono anche, per fortuna, ripeto, tante persone che hanno la possibilità di avere il riscaldamento a casa. Stai bene a 25 gradi, 24 gradi, non hai bisogno di mettere nel corpo tante calorie. Come dicevamo, la migliore carbonara d'Italia, secondo il Gambero Rosso, la fa un tunisino. Lui è Nabil Adi Hassen, chef dell'Enoteca Roscioli a Roma. Sì, mi è stato assegnato questo premio. Non c'è, diciamo, un segreto, secondo me, o qualcosa di particolare. Nel senso che, cioè, aveva l'amore per la cucina, ti spinge a fare qualunque tipo di cucina, ecco. Senta, chef, ci dà un suggerimento per le feste di Natale, per le prossime feste, per un menù delle feste? consiglierei anche, anche vada per cambiare un po', ecco, cioè carpaccio di petto d'anatra con fi di mango, salsa all'aceto balsamico e gambero di fiume. Qua per esempio ho fatto un piccolo tortino di zucca rossa e su fritte. Per esempio ho fatto qua le due rape, rapa bianca, rapa rossa e la panzanella con mini tartare di manzo al coltello. Questi sono come antipasti, per esempio il pomodoro farcito e grassato alla vaniglia. Il capodanno per esempio qua ho fatto, guarda, una terrina di foie gras spiziata al vapore con confettura di mandarino allo champagne. Questo è il mio capodanno, del capodanno. Ho fatto qua uova in tigame con cozze e tartufo bianco. Questo qua sono antipasti. Come primi ho fatto lo spaghetto con coda di gamberone, semi di cumino. Per esempio il semi di cumino è tunisino, una specie tunisina, una specie araba. Dadolata di mortadella scottata. E come secondo, per esempio, petto di piccione cotto su una mattonella di sale con la sua zuppetta di farro. We count to the sky stars. We found the love within us. Dalla Tunisia alla Spagna, Alba Esteva Ruiz è la giovane promettente chef del ristorante Marzapane di Roma. Cerchiamo di un po' mantenere la tradizione. Appunto io quest'anno, il giorno di Natale, faccio, come vi dicevo, questo brodo, si chiama il cocido, che sarebbe una specie di bollito, soltanto composto di maiale. Del maiale si usa una specie di salsiccia simile al codecchino, quindi fresca, la pancia del maiale, i piedi del maiale, la gallina, tre tagli del manzo e poi si fa con ceci, carota, cipolla e cardi. Quindi si fa questo brodo dove poi si utilizza in tre modi: prima si mangia la zuppa, poi si mangia la carne e poi si mangiano tutte le verdure ripassate. E questo sarebbe il piatto più, diciamo, tradizionale di tutti i Natali. Non c'è un piatto che si mangia a Capodanno, però a mezzanotte, invece di mangiare le lenticchie, da noi si mangiano i chicchi d'uva. Quindi gli ultimi 12 secondi dell'anno, c'è questo grande orologio in Plaza del Sol a Madrid. E gli ultimi 12 secondi dell'anno, in tutti i televisori delle case spagnole, c'è questo pendolo che ogni gong bisogna a mangiare un chicco, che porterà fortuna per ogni mese dell'anno. L'ultima differenza è la befana. E da noi non esiste la befana, ma esistono los Reyes Magos, i Rei Magi. Quindi si fa questa grande festa in tutte le città e i paesini piccoli della Spagna, dove c'è questa grande sfilata, i bambini salgono in questi grandi carruaggi dove sopra ci sono i Rei Magi. Quindi niente calza della befana? Niente calza della befana, no. E per quanto riguarda i dolci, no, lì non siamo tradizionali. A fine pasto ovviamente c'è sempre il panettone a tavola. Stanno a Natale proponiamo latte vaniglia e camomilla, più i colori, no? Bianco, quello che ricorda a me tanto alla neve. Io vengo da un paese di montagna che si fa sempre il Natale in mezzo alla neve. On s'asplace, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Son igloo, ça plane pour moi. È divisa fra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti l'anima di Alice Delcourt, fondatrice dell'Erba Brusca a Milano. Io sono metà francese, mio papà è francese, sono nata lì e mia mamma è inglese e poi siamo andati tutti in America quando avevo un anno. Quindi in realtà è un po' un misto strano, diciamo, di culture e quindi anche nel Natale un po' c'è un po' rispiegato questa un po' melting pot di culture. E per mio padre è un po' un omaggio tipo alle sue radici francesi. Mangiavamo sempre la zuppa di cipolle con il formaggio sopra, quello classico francese, alla vigilia. Mia madre per Natale aveva, diciamo, non tantissime tradizioni, però alcune che faceva tutti gli anni, che faceva sempre la torta di Natale inglese, che è una cosa che sì, tutte le case in Inghilterra fanno, che è tipo questa torta di frutta secca, frutta disidratata, è tipo un mattone. Tipo Christmas pudding, diciamo gli stessi ingredienti, però con tipo in forma di torta, cioè immagini un panettone molto molto denso. Mm-hmm. E poi che viene ricoperto di marzipane e poi ricoperte ancora di una glassa bianca che si indurisce e si mette tutte le figurine di Natale sopra, che sembra neve, e si tiene lì tipo un mese. Sembra una cosa terribile come la sto descrivendo, ma in realtà è buonissima e mio padre mangia tutta ogni anno, che non so, con tipo 4 kg di torta, perché sono così pesanti, dato la frutta disidratata, la frutta secca. Cosa resta di queste tradizioni di famiglia e di origini straniere nel suo menù di Natale? Natale, secondo me, ovviamente è una festa religiosa e la mia famiglia non è mai stata molto religiosa, quindi è sempre rimasta una cosa molto di riunirsi intorno al tavolo, che diciamo sono più o meno lo scopo di tutte le feste. Il cibo sia ovviamente nella vostra tradizione è molto molto importante, ma anche in quella francese e quella inglese. Io, la mia nonna inglese è stata una cuoca e lei per noi è sempre stata la persona che faceva tutto attraverso il cibo, quindi in realtà tutti i ricordi che ho di Natale intorno al tavolo con questi arrosti enormi che duravano per ore sono sempre in Inghilterra, non sono neanche in Francia, che uno penserebbe che sarebbe più vicino alle tradizioni italiane, insomma, come festeggiamento di Natale. E al ristorante invece, da voi, che cosa proponete per le festività? Rivisitiamo, diciamo, il panettone in diversi modi, per un po' perché soddisfare i gusti di chi vuole mangiare il panettone tutti i giorni a dicembre. Mm-hmm. E poi facciamo tantissime... A me piace anche usare il cotechino, ma magari non è... non è un modo tradizionale, cioè di solito si serve con le lenticchie, invece noi abbiamo servito con una crema di mele e raffano con un insalato di mele e senape, cioè mele crude e senape sopra, per un po' cambiare l'idea di come mangiarla. Sempre con un occhio quindi all'orto anche? Sì, sì, no, ma tutto qui gira intorno alle verdure o frutta, quindi non è mai troppo puntato su la carne, anche se diciamo intorno a Natale è sempre un momento di magari fare delle carni che la gente di solito tutto l'anno non mangia, no? Adesso facciamo spesso l'oca, i germani, i piccioni, tutto un po' cacciagione o carne, diciamo, che uno magari mangerebbe più volentieri intorno a Natale. E per quanto riguarda i dolci? I dolci in questo momento abbiamo soprattutto cose un po' più pesanti, sono invernali, abbiamo il Monte Bianco che resistiamo con un po' di diverse cose tipo con i cachi, il gelato allo yogurt insieme alla crema di maroni. facciamo anche una tipo una rivisitazione di Foresta Nera, che mettiamo anche le barbabietole dentro, anche lì mettiamo sempre verdura o frutta. Sì, rivisitiamo un po' queste cose qua. Abbiamo fatto i pan perdu di panettone, i French toast americani con panettone, quindi tipo il pane, il panettone che viene messo in padella con il burro, che però prima è bagnato in un po' di latte e cannella e viene molto soffice con croccante fuori, tipo un po' caramellato, tipo i pancakes, i panettone, per dire. Che può essere anche un modo per riutilizzare il panettone. Sì, soprattutto perché mi sa che tutti i 20 abbiamo questo problema. Con un po' di... C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul, comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane. Andiamo in Oriente, ma con radici svizzere. Pietro Lehmann, chef stellato del milanese Gioia, è svizzero di origini, ma ha lavorato molti anni in Cina e in India. Secondo me la celebrazione, vabbè, questo è il punto di vista dei vegetariani, va fatta come amore verso tutti gli esseri. Un aspetto interessante del professor Venonisi, che lui, quando gli si domandava perché era vegetariano, non diceva sono vegetariano perché fa meglio la salute, ma diceva sono vegetariano perché amo gli animali, e questo è un po' il punto di partenza importante. Quindi non deve essere una festa per noi e quindi esatto, tacchino, ma sì, deve essere una festa anche per gli altri, se capisco esattamente, bene. Esattamente, esatto, quindi allargata a tutti gli esseri che vivono con noi. E comunque, effettivamente le feste sono anche un momento di gioia di stare assieme. Il cibo è molto importante, anche che il cibo sia... sia buono, e quindi io a Natale cucino con golosità e anche con un filino in più di grasso di quello che faccio di solito, perché mi dà quel senso di calore, di elemento. Quindi magari si mangia una fetta di torta di più, ma però lo si fa in un certo clima di celebrazione, comunque mangiando un po' di più. Io proporrei come ricetta di Natale, che a me piace molto, anche questo è molto delle mie parti, degli gnocchi di patate, che quindi vengono impastati con cotta la patata, impastata con della farina, e non c'è bisogno di mettere uova negli gnocchi perché comunque stanno benissimo assieme da solo. Poi, per fare una cosa più raffinata, visto che siamo nelle feste, a me piace molto farcire. Noi possiamo fare, invece che fare di gnocchi tagliati a pezzetti come siamo di solito, possiamo lasciarli un po' più grossi e poi all'interno di ogni singolo gnocco nascondere un elemento. E quindi in uno si può mettere una nocciola, in un altro mettere un pezzetto di broccolo, in un altro due capperi, proprio in modo molto libero. E alla fine questo piatto diventa un piatto con una vita sua all'interno, dove ogni cucchiata va in una direzione più interessante, non si banalizza, tra virgolette, anche se per me gli gnocchi non sono banali, come se fosse solo un piatto di gnocchi. Anche qui una salsa è necessaria per tenere assieme. Io associo il Natale, le feste, alla ricchezza, quindi lo zafferano per me è un elemento simbolicamente ricco, e dunque interessante fare una salsa allo zafferano, non necessariamente con la panna o con la panna di soia, ma un modo molto bello per fare le salse è farle con le verdure. Quindi ad esempio cuocere del sedano rapo oppure i cavolfiori ben cotti, poi frullarli, emulsionarli con un po' di olio d'oliva e poi all'interno inserire lo zafferano. Quindi è una salsa gialla, golosa, molto rotonda, con il gusto della verdura e dello zafferano, da accompagnare poi agli gnocchi. Quindi una cucina vegetariana allegra per le feste. Assolutamente. Swing and jingle bells ring, snowing and blowing, our bushels of fun. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi do appuntamento al 7 di gennaio, la notte di San Silvestro. Infatti ci prendiamo una pausa, andrà in onda uno speciale di Capodanno. Indovina chi viene a cena torna per raccontarvi identità, cucina e migrazione il 7 di gennaio. Vi faccio quindi anche i miei più cari auguri per uno splendido 2017. Buon appetito e buon Natale a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little, that's the glory of love.